got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Allora, buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta. Indovina chi viene a cena, la trasmissione che come sempre inizia con questo pezzetto di questo bellissimo film di qualche tempo fa. Di parecchio tempo fa, indovina chi viene a cena. Parliamo di identità e parliamo di migrazione. In questo caso di identità e di musica, direi, perché questa sera abbiamo un rapper italiano di origini nigeriane, ma da sempre praticamente qui in Italia. Io do il benvenuto a Tolu Lope Olaubode Kuti. Buona serata. Buonasera. Mista Tolu, no? Per la scena rapper italiana. Sentendo il clip che avete mandato prima dell'intervista, mi è venuto da pensare che ieri sera ho guardato il film Non sposate le mie figlie, che è tipo la versione aggiornata di Indovina chi viene a cena. È vero, è un film sugli schermi al cinema proprio in questo periodo, parla di integrazione, di discriminazione e lo faceva negli anni 60 in America, insomma è passato più di mezzo secolo. Queste situazioni purtroppo esistono, mi pare di capire, ancora sentendo le sue canzoni. Assolutamente. Posso dire che la stessa situazione del film anch'io l'ho avuta vagamente. Quindi con una ragazza... Sì, cioè io abito vicino a Brescia in un paesino che si chiama Castiglione degli Stiviere, cioè originariamente dove stanno i miei genitori, e ovviamente ad un certo punto ho cercato una ragazza e non essendoci molte altre ragazze di colore come me, nere come me, ho avuto questa ragazza italiana e credevo fosse tutto perfetto, tutto rose e fiori, fino a quando ho dovuto conoscere i suoi genitori. Italiana bianca, no? Lei? Italiana, sì, al 100%. Un'italiana padana, doc. È stata dura. Più che altro, cioè io posso dire che il tipo di... Non voglio parlare di razzismo, però il tipo di situazione che viviamo noi non è il razzismo esplicito, sono sempre quell'insieme di battutine, quegli sguardi, quelle domande strane sulla vita tua, dei tuoi genitori, un po' di pregiudizi, cioè è quello che si affronta di solito. Quelle domande imbarazzanti del tipo... Cioè le faccio un esempio, magari sono andato lì per la prima volta da lei, e avevo una macchina tipo era la macchina di mio padre che usa per lavoro. Sono andato lì, magari era una bella macchina e loro, essendo delle persone lì che abitano in un paesino proprio di campagna, non sono abituati a vedere una persona nera con una bella macchina. Sono arrivato lì e il padre fa: oh, ma tu dove l'hai trovata questa macchina? Ma cioè, non so se era una battuta, se era serio così, però questo tipo di domanda che non mi immagino che farebbe se fosse andato lì un Giacomo Rossi che è bresciano ed è bianco, capisce quello che intendo. Chissà cosa penserà questo papà un domani quando lei, insomma, che ha conquistato la stima di un rapper famoso come Fabri Fibras, ha fondato una sua etichetta e speriamo, insomma, che abbia sempre più successo. Posso giurare che questa cosa qua di Fabri Fibra, la mia amica, ora non siamo più insieme però ci sentiamo, ha detto che lei è stata contenta perché tutta la sua famiglia stava guardando il telegiornale, improvvisamente è apparso Fabri Fibra e la mia faccia. E quindi dai, una vittoria perché la madre era contenta. Tra l'altro questa frase, indovina chi viene a cena, questo riferimento al film, c'è anche in una sua canzone. Sì, c'è una mia canzone che si intitola Sogni, nell'album Wake Up, che proprio parlo di questa situazione qua. Sinceramente ho cambiato i nomi, ma ho parlato della mia situazione con la madre della mia ex ragazza a quei tempi. Han superato i tabù, frequentano gente di giù. Una insieme a un nero, Lisa si dispera. Che è successo sti tempi, chi mi frena? Vorrebbe opporsi ma non vale la pena. Lisa spera per le figlie una vita serena. È arrivato che aveva 2 anni, giusto? Sì, esattamente. I suoi genitori arrivano dalla Nigeria? Sì, avevano 21 anni e sono venuti qua nell'80. Mio papà è venuto qua nell'89, cioè l'anno in cui sono nato io, e sono venuto 2 anni dopo. Con la mamma. E quindi cresciuto in provincia di Brescia, è un hip hop italiano e mi verrebbe da dire lombardo, nel senso che racconta una provincia lombarda. Assolutamente, sono pienamente comunque nella scena, conosco tutti già questo ambiente qua dell'hip hop italiano, perché molti magari altri ragazzi di seconda generazione che si approcciano all'hip hop, a questa musica qua, tendono a ghettizzarsi, a fare la loro cosa che è solo magari filo americano. Io invece sento di far parte proprio della scena italiana, rap così hip hop. Allora, entrambi i suoi genitori hanno lavorato come operai, no? E poi, lo dicevamo prima, suo padre è riuscito a mettersi in proprio, avere una sua attività. Com'è stato crescere nella provincia da italiano con la pelle però nera? Io sinceramente dico sempre questa cosa qua. Io mi sento molto fortunato per come è andata la mia vita, perché ho avuto la fortuna di ritrovarmi in una situazione in cui già dall'elementare ho avuto una classe abbastanza multietnica, c'erano 5 ragazzi stranieri, tra cui un cinese, un marocchino, un nigeriano, così, e tipo la nostra insegnante all'elementare ha fatto in modo che tutti noi comunque avessimo una mente aperta. Per esempio, quando eravamo in quarto superiore, piuttosto che farci studiare i greci e romani, ci ha fatto studiare la cultura di ognuno dei ragazzi stranieri che c'erano nella nostra classe. Quindi è venuto mio padre a parlare delle storie sulla Nigeria, è venuto mia mamma a parlare dell'Islam, è venuto la padre della ragazza cinese, così. E devo dire che non ho subito tipo grandi manifestazioni di razzismo. Magari quello che posso dire che subisco ogni tanto sono le piccole discriminazioni, quello di cui ne parlavo prima, le battutine, i sorrisini, i sospetti, certi dubbi qua. Però io posso dire di aver avuto un'esperienza piuttosto positiva. Poi ho anche incominciato a fare musica e questo ha reso la cosa ancora, cioè mi ha reso una persona magari più apprezzabile, più socievole, più accettabile per leghista medio chiuso mentalmente. Però mi rendo conto che per molta gente non è andata così bene, cioè, ma anche mio fratello, tipo mio fratello ha 21 anni e lui già abita in Inghilterra e non è così legato all'Italia come posso esserlo io. Quindi io mi sento fortunato, però so che ci sono un sacco di dinamiche difficili, dure da affrontare, però a me è andata bene, a me piace. I got love for this life, I don't wanna be this bad, no. Please Lord take me and hide, this life just ain't right. Cause I got love for this life, I don't wanna be this bad, Lord please take me and hide, this life just ain't right. Sognare è bello, non fatevi dire chi siete, che i vostri sogni sono troppo grandi, osate. È molto interessante questa cosa che ha raccontato della sua scuola, no? Mi pare di capire che anche l'approccio dell'insegnante sia stato importante. Sì, assolutamente. E con tutti i miei amici, cioè proprio ti ha reso persone dalla mente aperta. Infatti tutti i miei amici sono comunque persone, come posso dire nel nostro gergo, giuste, cioè con la mente aperta. Non mi hanno mai creato problemi. Lei ha studiato poi anche in Inghilterra e in America? Sì, ho fatto liceo linguistico qua in Italia, a Castiglione delle Stiviere. Poi ho fatto un anno di scambio culturale, sono stato in America per un anno. E quello è stato la cosa più importante della mia vita, perché mi ha rivoluzionato, mi ha aperto la mente. E quindi poi sono tornato qua, ho fatto la quinta superiore e dopo la quinta superiore sono andato in Inghilterra a fare l'università. Mi sono laureato in scienze delle comunicazioni in Inghilterra e poi sono tornato qua in Italia. Un rapper laureato? Sì. Ah, non lo dica agli altri rapper, perché sennò dicono che non sono del ghetto. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Tu stai male quando apri quei cazzo di giornali, leggi la tua squadra ha fatto solo pari. Io sto male quando mami ha la testa tra le mani, sono morti due immigrati solo perché tali. Mio fratello ha 8 anni e continua a domandarmi, cambieranno sti italiani quando crescerà domani. Saprà trarre il meglio dal suo miglio, o sarà come i ragazzini a Parigi nelle banlieue, senza nessuno che lo ascolti. So di una varietà di problemi irrisolti, snobbati dai varietà a causa degli ascolti. Siamo con Mista Tolu, rapper italiano, questa sera a parlare di musica e anche di identità. Mista Tolu, parlavamo dell'hip hop, del rap come uno strumento attraverso il quale parlare di temi sociali, no? Certo, certo. È sempre stato quello che ho provato a fare io fin dall'inizio. Quanto importante è stato la conoscenza del rap americano, anche questo viaggio studio in America? Le dirò. Ho pensato di andare in America sperando di conoscere un po' la cultura hip hop, la cultura dei neri americani, ma purtroppo ho avuto questa sfortuna che sono andato in un paesino della Pennsylvania ed era ancora più bianca di quanto non fosse dove abitava Mantova. Quindi cioè tutti i ragazzi, tutti i miei amici che ho conosciuto là erano persone bianche, così, cowboy un po'. Magari alcuni ascoltavano un po' l'hip hop, però non è stato, cioè l'hip hop concretamente l'ho vissuto di più in Italia. Quando sono stato, ho avuto la necessità, il desiderio proprio di fare le canzoni, di diventare anche un rapper e fare tutte le mie cose, l'impulso è partito da una cosa tipo più da me, sociale, dal mio desiderio di voler comunicare, parlare di determinate tematiche. Ecco, le tematiche quali sono? Perché quelle della discriminazione, il diritto alla cittadinanza, mi sembra che tante sono quelle che stanno a cuore, anche alle seconde generazioni. Sì, assolutamente, cioè mi sono sempre magari sentito sin dall'inizio un ragazzo di seconda generazione e mi sono sempre sentito di dover rappresentare un gruppo di persone di cui in Italia purtroppo non se ne è mai parlato molto, perché vedo anche sempre i giornali, c'è sempre confusione su questa cosa qua, perché si parla sempre di immigrazione, magari includono anche me, anche noi figli di immigrati, però noi in realtà magari siamo cresciuti qua in Italia, siamo sempre stati qua, cioè alla fine siamo italiani al 100%, abbiamo amici italiani, però cioè subiamo questa classificazione in immigrati che è un po' quasi fastidiosa. Quindi un po' il mio obiettivo inizialmente con la mia musica è comunicare e far parlare dei ragazzi di seconda generazione, in modo che certi italiani capiscano che ok, ci sono i neri che sono appena sbarcati col barcone, che magari non parlano la lingua e che sono più legati all'Africa, però poi ci sono i loro figli che sono cresciuti qua in Italia e sono italiani al 100%. Ecco, che rapporto invece ha con la Nigeria? Perché lei, lo dicevamo, è arrivato molto piccolo. È mai andato in Nigeria? Ci sono andato, cos'è, nel 2007 e poi da bambino. Non ho un rapporto proprio diretto perché non ci sono andato molto spesso, però siccome i miei genitori nel mio paesino a Castiglione delle Stiviere hanno un negozio africano, no? E quindi nonostante siamo in Italia, siamo distaccati dal nostro paese, io sin da quando sono bambino sono sempre andato con loro al negozio e ho sempre interagito con tutti i nigeriani della nostra zona, infatti conosco quasi tutti i nigeriani della mia area. Quindi sì, cioè non ho conosciuto la Nigeria proprio in sé direttamente, però l'ho conosciuta attraverso le storie delle persone che sono qua, che sono nigeriane. Infatti parlo perfettamente la lingua e anche il dialetto, il pidgin English, quello che si parla, la nostra versione dell'inglese. Scappiamo fino a lunedì, scriviamo imprevisti, visitristi e impegni lavorativi. Vorrei svegliarmi la mattina ed accendere la tele, sentire il giornalista dire oggi è andata bene. Ma it's alright, don't give up. C'è crisi ma non chiuderai l'Africa Store. Sorridi, mio fratello va all'asilo, Balotelli è il suo mito. Vorrei non dover parlargli del razzismo. Sei uguale al tuo amico pure se ti prende in giro. Vorrei non vedesse mai quello che ho visto. Vorrei, lo so, suona come Luna Pop. Con i miei se, i miei ma. Questa è una canzone registrata insieme a un altro rapper, Gallu. Il cantante è Gallu, è un mio amico delle mie parti, bresciano anche lui. Tra l'altro questo video qua, perché io oltre a fare le canzoni faccio anche le basi e faccio anche i video, tipo quel video lì l'ho proprio girato io, ho scelto io tutte le cose, ho fatto io le riprese, a parte quelle in cui cantavo ovviamente. E no, ho pensato di comunicare un po' le situazioni in cui può arrivare la mia musica, spero che possa arrivare a un ragazzo straniero che lavora, come al padre di famiglia italiano, come a una coppia mista fatta di ragazzi giovani di seconda generazione. Era quello il mio obiettivo. Ho provato a comunicare, a parlare della mia Italia, perché comunque tutte quelle persone sono comunque figure, persone della mia vita reale. Ho semplicemente cercato di rappresentare ciò. Lei è anche un produttore adesso, avete fondato un'etichetta. Com'è andata, com'è nata questa avventura? È nata tutta da me, da un mio socio, da un mio amico, che infatti la nostra etichetta si chiama Manca Melanina. Più che spiegarle come è andata, posso spiegarle cosa ci ha portato a volerlo fare. Perché le spiego, nonostante il pop sia una cosa molto tipo dei neri d'America, un po' importata dai ghetti degli States, in Italia purtroppo per ora, per come sono andate le cose, è sempre stata una cosa italiana al 100%. Cioè, le spiego, per esempio in Francia e in Inghilterra comunque il pop si è amalgamato alla cultura multiculturale dei ragazzi di seconda generazione e tutto quanto, invece qua in Italia è proprio una cosa bianca al 100%. E siccome comunque piano piano negli anni, facendo tante canzoni, sono comunque nella scena da tipo 5 anni, ho conosciuto vari ragazzi di seconda generazione come me che magari sono bravi, hanno molto talento, però non hanno i mezzi per produrre musica, per fare tutto. Ho deciso io di creare la mia etichetta con il mio amico, il mio amico si chiama Distupis, che anche lui è un rapper, e abbiamo creato la nostra etichetta per dare una chance a tutte le persone svantaggiate. Diciamo che vi rivolgete a giovani artisti italiani di seconda generazione. Sì, ma non solo, comunque è uscito il nostro mixtape che è uscito il 15 aprile, si può scaricare in free download sul nostro sito, Manca Melanina, e comunque ci sono 13 tracce e nel mixtape partecipano artisti da tutta Italia. Ora mi hanno detto non so usare le parole, mi dispiace professore, ora è la mia professione. Per chi ti ha sempre detto no, l'hai dimostrato con rispetto che puoi vincere, non lasciarti sconfiggere. Crescendo mi hanno detto forse tu sogni troppo, ma sognare guardando la TV io non posso, dal destino io non ce l'ho più, perché l'otto I do what I gotta do because fair is not an option. La mia battaglia inizia presto, a 15 anni avevo i dreadlocks, nato con l'obiettivo di lasciare il segno, questo resta il mio regno e non lo perderò, e non lo perderò. Sì. Fabri Fibra invece come l'avete conosciuto? Ma no, perché io faccio rap da tipo 5 anni, no? Quando ho fatto il mio primo CD, si chiama Tutti vogliono l'album, l'ho mandato alla manager di Fabri Fibra, che si chiama Paola Zucca, e ho detto, oh, senti il mio CD, cavolo, non è giusto, siamo in Italia, ci sono tanti ragazzi di seconda generazione, e voi non producete ragazzi di seconda generazione, toh, sentila. E da lì siamo rimasti in contatto. Ovviamente era il mio primo disco, ero ancora acerbo, non ero ancora maturato, però da lì io e lei siamo rimasti in contatto e mi ha sempre detto, dai, continua a fare la tua roba, comunque ti tengo d'occhio. Ultimamente abbiamo fatto un po' di lavori, sono usciti un po' di video con i miei soci per il nostro progetto, per il nostro Manca Melanina mixtape, e quando ha visto un po' di video interessanti, quando Fabri Fibra doveva fare il video di una delle sue canzoni, mi ha detto, dai Tommy, vieni con i tuoi amici e mi tenere il video, divertiamoci, così è stata un'occasione per parlare, così. Se madre natura è una donna, tu allora dall'uomo che cosa ti aspetti? L'amo del calcio, il sole caldo, le passerelle, le donne più belle che ti abbia mai fatto, l'altro dell'alcol, la grande bellezza, poi caparrezza, il primo maggio, l'amo del calcio, il sole è caldo, le passerelle, le donne più belle che ti abbia mai fatto, l'altro dell'altro, il mito di pazzo, la grande bellezza, poi caparrezza, il primo maggio. Da parte delle radio, delle trasmissioni, c'è una diffidenza oppure c'è molta curiosità magari anche per un'etichetta di questo tipo? Devo dire che sinceramente ora, cioè, tutta la gente che comunque ci conosce è stato sempre solo attraverso internet. Non siamo ancora, però posso anche dire che il rap, l'hip hop è un genere che comunque è quasi autosufficiente. Le radio magari sono indispensabili per la gente del livello di Fabri Fibra, di Marrakesh, la gente davvero famosa che deve fare dei numeri esorbitanti, e comunque, cioè, l'italiano medio ha bisogno di sentirli in radio. Però l'hip hop è comunque una cultura un po' autosufficiente che abbiamo il nostro giro delle persone che ci seguono e parte tutto da lì, cioè piano piano queste persone aumentano. Un'ultima... Siamo ancora arrivati nella fase in cui le radio mettono le canzoni, quindi posso dire che non è ancora successo, però non so se è per diffidenza o per cosa, però non è ancora successo. Però può dire ai suoi colleghi che magari possono mettere qualche canzone nostra ogni tanto. Le passerelle, le donne più belle che ti abbia mai fatto, la droga e l'alcol, il rito di pazzo, la grande bellezza, poi caparrezza, il tuo omaggio. Paese. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. You're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, you know, you're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, you're welcome to, welcome, welcome to. Come hanno preso i suoi genitori che l'hanno fatta studiare all'estero, in Italia, il fatto che loro, insomma, hanno faticato, l'abbiamo detto parecchio, sono venuti in Italia a cercare fortuna, come hanno preso il fatto che ha deciso invece di fare il rapper? Devo dire che c'è una ragione, che ora tipo negli ultimi 4 mesi non abito più a casa dai miei, quindi devo dire che mi hanno sempre comunque supportato, però sono delle persone concrete, sono dei nigeriani, il business è la loro cosa e credono che ogni cosa che uno faccia debba essere monetizzata e si deve guadagnare soldi. Quindi mi dicono, se fai questa cosa qua, falla in modo concreto, però per ora non abbiamo ancora visto i risultati. Quindi insomma, ragionano come i padri bresciani, tale e quale. Esattamente. Però posso dire che sono anche contento perché i miei genitori hanno comunque una mente aperta e non si sono mai opposti concretamente, semplicemente mi hanno dato i loro consigli, mi hanno dato i loro consigli, mi hanno detto, ed effettivamente hanno ragione, se questa cosa diventa concreta ha senso, se no lo spreco perché effettivamente sono laureato, posso fare tanti bei lavori, tutto quanto. Grazie, grazie a Mista Tolo e buona fortuna per questa grazie nuova etichetta, buona serata. Buona serata. E per stasera è davvero tutto, io ringrazio in regia Paolo Corleoni, tutti voi per essere stati in ascolto. Ascolto, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.